9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon mercoledì 20 luglio. Prima di arrivare subito al tema del giorno, consentitemi solo qualche parola. Trovate nei telegiornali di ieri, nei giornali di stamane, moltissimo spazio dedicato all'audizione che c'è stata la Commissione Cultura di Westminster ieri, di Rupert Murdoch e di suo figlio James, i capi della News Corporation, una delle più grandi aziende editoriali internazionali, una strepitosa storia di successo. E trovate il resoconto dell'incalzare delle domande dei parlamentari britannici di fronte all'enorme scandalo del tabloid News of the World, travolto di fronte alla prova comprovata delle violazioni intollerabili che in quel tabloid di notizie di cronaca, gossipara, cronaca bianca, cronaca nera, cronaca rosa, venivano compiute dai loro giornalisti per ottenere dalla polizia britannica accesso a dati riservati, a intercettazioni che venivano fatte al di fuori di ogni legge e così via. Ecco, l'incalzare di quelle domande martellanti per ore a Rupert Murdoch, che è una figura straordinaria, 80 tenne, il ritardo delle sue risposte, sia pure nella fermezza di una posizione che si riassumeva nella frase «non sapevo, mi hanno tradito coloro che avevano la mia fiducia», e le risposte invece più precise, ma anche più fredde, più meno coinvolte del figlio. Ci avete pensato a che, sia pur tardiva, ma a che clamorosa dimostrazione di democrazia ci viene da quel paese che è stato il primo a tagliare la testa a un re in nome del potere del Parlamento e del popolo? Pensate se qualche cosa mai di simile è avvenuto nel nostro paese, dove pure abbiamo un sistema dell'informazione costruito su questo doppio pilastro: da una parte una RAI in mano ai partiti, dall'altra un gruppo privato che si è affermato a spallate e che però ha costretto RAI da una parte e duopolista privato dall'altra a fotografare l'informazione italiana col privilegio alla televisione per tanti anni in nome della politica, e che solo recentemente, in questi ultimi 6-7 anni, è stato scosso da chi? Esattamente da un terzo polo televisivo. Tutti pensano al polo televisivo della 7, che però con tutto il rispetto per Mentana fa ancora gli ascolti che fa, ma in realtà il terzo soggetto che raccoglie più risorse private sul totale del duopolio televisivo precedente è appunto Sky. Pensate alla differenza tra le tante polemiche che ci sono sempre in Italia su come il duopolio si fa fotografare dalla politica ex post, rispetto a un Parlamento che di fronte a uno scandalo di quel tipo, per cui si dimette il capo della polizia, lo trascina in Parlamento al magnato e lo sottopone alle domande di ieri. Ecco, io penso che anche di questo è fatta la forza e la credibilità di una democrazia, anche di fronte a comportamenti intollerabili che non lambiscono ma investono le istituzioni di quel paese, che proiettano ombre pesanti e molte polemiche sul Premier, i cui consiglieri erano espressione di quello stesso mondo. Ecco che una democrazia si rimette in piedi e mostra in Parlamento di essere capace di fare non solo domande ma di assumere poi provvedimenti anche molto molto molto pesanti. Era in gioco anche lì il rilievo e l'espansione che era attesa ulteriore del gruppo in quel paese. Quell'espansione non ci sarà. Pilastri del giornalismo mondiale come Wall Street Journal si interrogano, visto che appartengono alla stessa proprietà. Di questi lavacri necessari è fatta la credibilità dell'informazione da una parte e della politica dall'altra, quando si dimostra che la politica oramai non riesce a fare a meno di metodi molto discutibili e di intrecci molto discutibili con l'informazione. Non sto riferendomi a niente di particolare in Italia, ma il confronto è un confronto che riempie di amarezza per i ritardi italiani e per questo modo italiano di non affrontare mai in maniera decisa e di petto i problemi. Chiusa la parentesi, perché oggi ci occupiamo invece di Libia, e ci occupiamo di Libia partendo da uno spunto che ieri avete trovato su alcuni quotidiani italiani, uno spunto di una vicenda un po' misteriosa, particolare, relativa a delle armi che erano state sequestrate a bordo di cargo che le portavano a un paese che non doveva riceverle, e che da un deposito della Marina Militare Italiana all'Isola della Maddalena sarebbero scomparse perché le avremmo date come nostro contributo agli insorti in Libia. E partiamo da questa vicenda in realtà per riprendere un pochino l'attenzione alle vicende che sono in corso al paese rivierasco che sta dall'altra parte della nostra costa, perché si è spenta l'attenzione anche sugli organi di informazione italiani, eppure siamo in procinto di una missione che dovrebbe essere vicina alla parola fine, al compimento, o quantomeno siamo comunque a poche settimane dall'esaurirsi del mandato internazionale affidato dalle Nazioni Unite fino al prossimo settembre. Ma che cosa sta in realtà avvenendo sul terreno tra gli insorti e le forze filolibiche? Non è molto chiaro, la situazione sembra bloccata e tutto. Tutte le operazioni condotte allora dal fronte NATO, dai francesi e dai britannici, che sono stati sempre la punta avanzata dopo che l'America all'inizio ha lanciato i missili, si è defilata e ha lasciato agli europei la parola fine, a che cosa conducono davvero? La Lega poche settimane fa, la settimana scorsa ancora, ha agitato le acque dicendo basta con questa operazione sbagliata sin dall'inizio. È avvenuto contestualmente un'altra vicenda che a me ha provocato altra amarezza, perché la Lega si è battuta e in teoria ufficialmente dai media, molti di voi avranno capito probabilmente che anche ho ottenuto un taglio al finanziamento delle missioni internazionali dell'Italia. Ci occuperemo anche di quello, perché è una vicenda paradossale, a mio giudizio una colossale presa per i fondelli, e anche questo mi interroga molto, perché un paese che destina la comunicazione per i finanziamenti ai nostri uomini in divisa impegnati in teatri operativi così delicati, e noi tutti come informazione ci prestiamo a questa presa per i fondelli senza spiegarvi che una presa per i fondelli getta su di me grande amarezza, sia per il poco rispetto che portiamo a chi porta la divisa e rischia la vita, sia perché è un'ulteriore conferma, almeno secondo me, della scarsa serietà con cui ci occupiamo tutti quanti di vicende così delicate internazionali che si riferiscono a interessi primari per il nostro paese. Quando dico scarsa serietà parlo della politica, ma parlo anche di noi, di chi fa il nostro mestiere di informazione, visto che dovremmo, per così dire, avere tutti gli strumenti per mettere in mutande la politica, se si permette di raccontare storie di quel tipo. La storia di quel tipo la dico in una parola, ma la faccio spiegare a chi è più competente di me, e che voi avrete appreso che la Lega ha, per così dire, ottenuto il taglio di oltre 2.000 militari italiani su 9.000 erotti impegnati all'estero, e quindi il taglio dei finanziamenti. La mia opinione, che non è solo la mia ma è di quelli che seguono professionalmente l'informazione della difesa, i numeri che stanno nei provvedimenti assunti a copertura delle nostre missioni, è che quel taglio di 2.000 è un finto taglio che vi è stato comunicato, perché è stato fatto su una sovrastima del contingente italiano presente, e che in realtà la cifra a cui poi arriviamo, più di 7.000, sono esattamente quelli a cui saremmo già arrivati per effetto dei tagli concordati a livello multilaterale. Ricordo che il Quirinale, dopo il Consiglio Supremo di Difesa svoltosi pochi giorni fa, all'inizio di questo mese, si è molto preoccupato di fronte a come questa polemica veniva resocontata sui giornali, tant'è vero che ha ribadito più volte il capo dello Stato, che Dio lo preservi, che invece non ci sono riduzioni unilaterali italiane, se non nell'ambito appunto degli ambiti multilaterali in cui avvengono le diverse missioni. Ecco, che paese siamo e dove sta andando la vicenda libica? Vi segnalo due articoli sulla stampa, sui giornali di oggi, dedicati alla vicenda libica. Il primo lo trovate pagina 36 nella pagina delle opinioni e idee del Corriere della Sera, è firmato da Bernard Henri Lévy. Henri Lévy fin dall'inizio è stato tra i più caldi, accesi, convinti sostenitori dell'operazione militare occidentale in Libia per liberare il paese dal regime di Gheddafi, ed è un appello rivolto a francesi, britannici e americani per non demordere, perché il titolo dice tutto dell'articolo di Henri Lévy: la disfatta di Gheddafi è vicina, i ribelli non sono affatto nel caos. Informazione, per così dire, militante, però molto molto molto convinta del fatto che si deve procedere fino alla fine e che a Gheddafi non deve essere consentita tregua. Trovate sugli esteri del Messaggero di oggi un articolo di Cristiano Tinazzi che informa di un quadro di relazioni politico-diplomatiche invece che resta molto complesso. Da una parte Tripoli, che dice che in realtà il contatto, quando dico Tripoli dico i filo gheddafiani, sostengono che il canale diplomatico tra Tripoli e Washington non è mai stato interrotto, come a far capire che l'amministrazione, una volta defilatasi dalle operazioni militari e del tutto pronta a consentire una soluzione diplomatica che non sia l'exit totale per Gheddafi e il suo regime. Dall'altra parte, oggi a Parigi Sarkozy dovrebbe ricevere, è ufficiosa la notizia, una delegazione degli insorti, e abbiamo avuto anche delle dichiarazioni ieri del presidente russo Dmitry Medvedev, che rende disponibile la Russia per una mediazione tra le due parti. Sullo sfondo qualche paese che potrebbe ospitare Gheddafi, se ne parla da mesi, ma in definitiva il rais libico ha sempre fatto intendere che vuole vendere cara la pelle. Allora tentiamo di capire meglio tutto questo intrico, cominciando con gli ospiti che hanno accettato oggi di stare con noi e che ringrazio, di capire innanzitutto meglio la vicenda che vi ho accennato all'inizio, cioè quella delle armi che avremmo dato agli insorti libici. Abbiamo con noi Alberto Pinna, che è stato uno dei giornalisti su quella sera, che ha scritto esattamente di questa vicenda. Io lo saluto e lo ringrazio, e allora ne parliamo meglio. Che armi sono? Dove stavano? Da dove venivano? A chi le avremmo date? Quando e come? Insomma, un po' buongiorno innanzitutto, un po' di domande impegnative. Che armi erano? Le armi erano sufficienti ad armare un piccolo medio esercito. C'erano 400 missili filo guidati con 50 postazioni di tiro, 5.000 razzi Katyusha, che per intenderci sono quelli che i palestinesi fanno spesso piovere sulle teste degli israeliani e che vengono usati spesso in Libano dagli Hezbollah, 11.000 razzi anticarro, poi c'erano 30.000 Kalashnikov e 32 milioni di proiettili per mitragliatori per Kalashnikov. Però tutte queste armi a un maxi sequestro operato nel 1994 erano armi che venivano dalla Russia, di fabbricazione sovietica, e andavano alla guerra dei Balcani. Queste armi vennero intercettate per una serie di trame fra servizi segreti nel canale d'Otranto, e poi vennero individuati anche gli autori del traffico internazionale. È una lunghissima trama, raccontarla sarebbe, ci vorrebbe almeno mezz'ora, diciamo così. Fatto sta che quelle armi furono confiscate e il Tribunale di Torino, nell'assolvere questa banda di trafficanti d'armi, perché anche se sono stati assolti, così possono essere definiti, perché vennero assolti perché il traffico venne individuato estero sull'estero, non armi destinate quindi a passare attraverso porti italiani ma ad andare in Croazia, dicevo che ordinò la distruzione delle armi nel 2004, le armi dovevano essere distrutte dal 2004. A questo punto la vicenda assume un lato grottesco, cioè pare che non ci fossero fondi per la distruzione delle armi e quindi vennero stivate alla Maddalena in un depot militare sotterraneo nell'isola di Santo Stefano. Di qui sono sparite tutte, in parte non si sa. Il problema è che dove sono andati a finire, chiaramente. Quando la Procura della Repubblica di Tempio ha cominciato a indagare, non su voci strane, ma sul fatto che queste armi, quattro container con queste armi, erano state viste in banchina, sulla banchina sui muri della Maddalena, erano state viste messe su un traghetto di linea con passeggeri, donne, bambini, e poi di qui dirette ad Olbia, imbarcate su un traghetto Tirrenia con 740 persone a bordo, e poi arrivate a Civitavecchia definitivamente disperse. Il giudice, il magistrato di Tempio, ha cominciato a indagare perché non possono essere trasportate armi, fra l'altro con esplosivi, non possono essere trasportate su imbarcazioni civili, e di qui è partito tutto. Alla Maddalena tutti hanno visto queste armi, ridevano, dicevano nei bar: sono le armi di Zhukov. Zhukov è l'oligarca sovietico arrestato a suo tempo dalla magistratura torinese, tutti sapevano che erano in questo deposito alla Maddalena le armi. E quando il giudice ha indagato, quindi ha avuto i riscontri, ha sentito tutti, A un certo punto, nei giorni scorsi, quando appunto si apprestava, sentì direttamente alcuni ufficiali della Marina e dell'Esercito, le armi sono state scortate da mezzi dell'Esercito, mezzi militari, c'è stato il segreto di Stato, o meglio, l'ufficiale della Marina hanno fatto sapere, non possiamo andare oltre, non possiamo parlare, perché c'è il segreto di Stato. Questa è in sintesi la vicenda delle armi, poi ci sono dei risvolti, dicevo, grotteschi. Il più grave è che sarebbero state portate queste armi su mezzi civili, spendendo poco più di 2.000 euro, perché non si avevano i 20-25 mila euro necessari per fare un trasporto militare su un cargo o su un cargo comunque diverso, non adibito a trasporto passeggeri. Un risparmio di 20 mila euro ha fatto saltare ancora una volta una questione delicata, una questione molto molto delicata. Dove sono andate a finire le armi? Dovevano essere distrutte, ma potevano essere distrutte in Sardegna, dove c'è il poligono del Salto di Quirra, un poligono proprio adibito alla distruzione, fra l'altro, oltre che esercitazione, alla distruzione delle armi. A chi erano destinate? E qui si apre uno scenario possiamo fantasticare, ma possiamo dire due cose. Primo, che non era l'unica volta, la sola volta in cui sono state portate via dalle armi, e secondo che se sono finite in Libia, qui l'altro aspetto grottesco, una parte possono essere andate al colonnello Gheddafi all'epoca nell'era del baciamano, quando i rapporti fra l'Italia e Gheddafi erano ottimi, e un'altra parte possono essere finite l'ultimo trasporto è di maggio ai ribelli della Cirenaica. comunque io devo dire onore ai colleghi che, seguendo tappa a tappa le indagini dei magistrati, ci consentono di capire che vicende come queste avvengono nel nostro paese. Ovviamente ora si tratterebbe di chiedere delle risposte ufficiali da parte dei responsabili della politica estera di difesa del nostro paese. Allora, altri due ospiti sono con noi: Gianandrea Gaiani, direttore di analisi e difesa, con mensile di politica analisi militare, che collabora anche con il Sole 24 Ore. Buongiorno a Gianandrea Gaiani. Buongiorno a tutti. Grazie e buongiorno a Vittorio Emanuele Parsi, che insegna relazioni internazionali alla Cattolica di Milano. Buongiorno professor Parsi. Buongiorno a tutti voi. Allora, Gaiani, in sintesi estrema, poiché in realtà il riferimento alle polemiche sul finanziamento delle missioni estere e alle polemiche della Libia, so che la pensi esattamente come ho detto, ma con molti più particolari. Perché l'ho scritto sul Sole 24 Ore. Esattamente. E allora, vogliamo ripetere un secondo a chi ne ascolta che cosa è avvenuto davvero su queste vicende, cioè come stanno i numeri, i finanziamenti, come la finanziamo la missione Libra, quanto ci è costata, e davvero abbiamo ridotto i contingenti militari italiani all'estero, come è sembrato sui giornali italiani dopo la richiesta della Lega? Partiamo dai numeri generali. Quest'anno le missioni italiane militari all'estero ci costeranno qualche decina di milioni in più di 1,5 miliardi di euro. L'anno scorso e nel 2009 abbiamo speso più o meno la stessa cifra, quindi non c'è un taglio reale dei numeri, dei costi generali, complessivi delle missioni all'estero. Sì, è operato una qualche riduzione, si sta riducendo, si cerca di ridurre il contingente in Libano, si sta cercando di ridurre quello nei Balcani, che ormai è considerato superfluo visto che l'area sembra è più o meno stabilizzata, ma c'è stato un aumento delle forze in Afghanistan, e poi c'è questa guerra libica che non era prevista fino a febbraio scorso e che, secondo voti governativi, è costata nei primi tre mesi, quindi da marzo a giugno, 143 milioni di euro. A me sembrano effettivamente pochi, devo dire, e che si dice, ritirando la portaerei Garibaldi, come si sta facendo oggi stesso, la portaerei Garibaldi rientrerà a Taranto, i prossimi tre mesi costerà appena 58 milioni. Dov'è il gioco sui numeri? Che per accontentare almeno di facciata la Lega Nord si è detto che si è gonfiato il numero dei soldati all'estero. Se si prende il documento dello Stato Maggiore Difesa, che si trova anche su internet, si rileva che i militari impegnati all'estero sono 7.224, diventano 2.000 in più considerando gli equipaggi delle navi e il personale dell'aeronautica che in navi che navigano a pochi chilometri dalle acque italiane, perché di fronte alle coste libiche sono, e nelle basi italiane partecipano in qualche modo alle operazioni della NATO sulla Libia. Da queste cifre, da questo numero di uomini che consente di portare, io dico in maniera artificiosa, il numero dei militari impegnati oltremare a 9.200, artificioso anche perché gli equipaggi delle navi non hanno ricevuto l'indennità operativa che ricevono invece come retribuzione i militari che partecipano veramente alle operazioni all'estero. Quindi di fatto l'equipaggio del Garibaldi è andato in guerra senza vedersi riconosciuta l'indennità di combattimento, chiamiamola così, operativa. Ma ritirando il Garibaldi si dice, beh, così ritiriamo 1.000 uomini, 980, ma è un gioco, in realtà è chiaro che una nave, l'equipaggio segue la nave sulla quale lavora, e in realtà il motivo perché non si dice, ma che fonti molto ben informate mi hanno rivelato, il motivo per cui il Garibaldi rientra è perché i nostri aerei imbarcati, gli Harrier, hanno esaurito le munizioni. Non è una cosa nuova, il Pentagono 2 mesi fa ha annunciato che stava alimentando con armi, bombe intelligenti, missili, alcuni paesi della NATO europei, per permettere a questi paesi di continuare a sostenere lo sforzo bellico dei bombardamenti sulla Libia. Ci tengo a dire anche bombardamenti sui quali noi poveri contribuenti italiani che paghiamo queste cifre, che siano vere o che non lo siano, non sappiamo nulla. Siamo l'unico paese della NATO nel quale il cui governo ha negato ancora una volta, perché è già accaduto con governi precedenti e ne parlammo proprio con te, Oscar, in passato, ci ha negato qualunque tipo di informazione sulle operazioni belliche che i nostri aeroplani, siano essi della Marina o dell'Aeronautica che sostiene lo sforzo numerico maggiore, hanno condotto in questi mesi sul territorio libico. E questa è una linea, per così dire, consolidata della comunicazione di questo tipo di operazioni internazionali militari italiane, quello di considerare che l'opinione pubblica e l'informazione italiana è meglio tenere all'oscuro per evitare l'impatto emotivo. Poi quando arriviamo a 40 caduti in Afghanistan facciamo un funerale di Stato a cui rendiamo onore alle vittime, ma per il resto non sappiamo quasi nulla, e perché veniamo considerati un paese non in grado di reggere l'informazione su questi temi. Volevo aggiungere a quello che hai detto che in particolare, poiché le spese da marzo a giugno dell'operazione in Libia non ricadevano nella copertura semestrale delle operazioni all'estero, perché viene fatta con un decreto ogni 6 mesi, più o meno per 700 e rotti milioni anche per la seconda parte dell'anno, in realtà quelle spese, quei 143 milioni sono state possibili anche perché si è attinti a dei fondi, che una legge che in realtà riservava dei fondi straordinari alla protezione civile. Questa legge ha consentito nel decreto al governo coprire d'ora in poi in parte anche i costi delle missioni, e comunque anche di andare avanti poi per le operazioni in Libia per la seconda parte dell'anno dopo giugno, con un bel aumento dell'accisa di 4 centesimi nel carburante. E però questa non è semestrale o relativa all'operazione in Libia, questa rimarrà, e questo è un altro modo per far capire a chi è in ascolto che il tesoro, da questo punto di vista, del governo, quando si tratta di mettere le mani in tasca, ha delle remore un pochino inferiori a quelle che ci riserva quando invece la comunicazione su queste vicende, su come vanno le operazioni militari e che cosa davvero fanno poi i nostri sul campo. Professor Parsi, andiamo alla riflessione più di fondo. Ha ragione secondo lei Henri Lévy, che dice andiamo avanti Occidente e non molliamo, oppure invece chi fotografa una situazione diplomatica che resta molto complicata tra i due campi e con operazioni militari che non fanno passi avanti significativi, ci dice che forse le armi non sono così decisive come pensa Bernard-Henri Lévy? Lei che dice? Ma dico che intanto bisogna partire da un punto che viene spesso omesso nel modo di ragionare e di comunicare, che voi giustamente stigmatizzavate in Italia, cioè che le armi, l'intervento militare, non è qualcosa di alternativo alla soluzione politica. L'intervento militare è uno strumento con cui la politica cerca di perseguire degli obiettivi. Se iniziamo a inquadrare la cosa in questo modo, vediamo che l'opposizione, soluzione politica, soluzione militare, perde completamente di razionalità. Dal punto di vista di cosa sta succedendo sul campo, dobbiamo tenere conto che, proprio in base a quello che voi adesso avete ricordato, la quantità di informazioni che abbiamo e la loro veridicità, per così dire, è molto scarsa. dal punto di vista prettamente politico, però con tutte queste premesse che vogliamo pur mettere, dal punto di vista politico l'obiettivo, la posta in gioco è molto elevata. Perché? Perché i paesi occidentali, in particolar modo i paesi europei più importanti dal punto di vista militare, hanno deciso con, diciamo così, veemenza di andare a un intervento militare per raggiungere l'obiettivo politico di far cessare i massacri, immediatamente o quasi subito diventato la rimozione del regime di Gheddafi. Rimozione del regime è legata al fatto che di Gheddafi non ci si fida più e quindi, non essendo un interlocutore credibile, è difficile immaginare che possa ottemperare eventuali promesse. Se noi molliamo questo obiettivo, questo è uno smacco maggiore, per così dire, per l'Alleanza occidentale e per i paesi europei. È vero che quello che ti ha detto è sacrosanto, siamo di fronte a paesi che non hanno neanche, diciamo così, la capacità finanziaria di dotarsi delle tecnologie militari idonee a sostenere un massiccio, tra virgolette, massiccio, non stiamo parlando della battaglia di Stalingrado qua, un massiccio e prolungato sforzo militare. Però se noi in questo momento dimenticassimo tutto quello che abbiamo detto in questi mesi, tutto quello che abbiamo costruito come, in senso non, come posso dire, non gaglioffo, ma costruito in termini di razionalità, di retorica, di costruzione dell'immagine della realtà che ci siamo messi davanti, sulla quale ragioniamo, sarebbe veramente difficile spiegare tutto questo, non solo alle opinioni pubbliche interne, ma direi soprattutto alle opinioni pubbliche dell'altra sponda del Mediterraneo. La credibilità dei paesi europei è scossa e trascossa in questi decenni da mille e mille situazioni. Certo che anche se anche sul punto che tutto sommato questi paesi ritengono comunque una capacità militare decisiva, molliamo questa cosa, a quel punto non so che cosa resta della nostra capacità. Eccoci tornati in studio, siamo partiti da questa vicenda, quelle delle armi stivate alla Maddalena, dopo anni in cui un sequestro per un traffico d'armi internazionale dalla Russia verso i Balcani, le avevamo stivate, non le abbiamo distrutte, ora sono sparite in tutto o in parte, e avete sentito di quali quantità stiamo parlando di armi, dopo essere andate su navi civili. Forse le abbiamo date una parte anni fa a Gheddafi, forse le abbiamo date il resto ai suoi insorti oggi. Qualche riflessione su cifre e artifici con cui funziona l'informazione in Italia sui finanziamenti delle missioni militari, sulla numerosità dei nostri contingenti all'estero, e una riflessione pacata ispirata al realismo del professor Vittorio Emanuele Parsi sul fatto che sia la parte militare dell'operazione sia la parte diplomatica si reggono a vicenda, perché se a questo punto ci tirassimo indietro dopo l'energia con cui Francia, Gran Bretagna e partner europei hanno indicato la via militare per rimuovere Gheddafi mesi fa, facessimo marcia indietro da questo, perderemo ogni credibilità sulla sponda sud del Mediterraneo e su tutti i paesi attraversati da le proteste di piazza che ancora non si assestano. Torniamo con cui su questo con il professor Parsi tra poco, ma ci ha raggiunto Alberto Negri, che è inviato al Sole 24 Ore e da tanti anni è la guida per molti di noi per capire paesi su cui l'informazione se ne occupa sullo spot quando avvengono queste vicende. L'impressione di Alberto Negri sulla situazione in Libia, sul campo e soprattutto sui contatti diplomatici per arrivare a un exit, visto che mancano poche settimane allo spirare del mandato delle Nazioni Unite alla missione, qual è, Alberto? Ma innanzitutto buongiorno a voi, ma la prima impressione è che sia uno scenario in evoluzione, veloce anche, perché sia i francesi che la NATO in generale sembrano più disponibili di prima a negoziare una soluzione con Gheddafi. Addirittura il ministro degli esteri francese Alain Juppé oggi diceva in un'intervista televisiva che sarebbe disponibile anche ad accettare che Gheddafi resti in Libia a patto che lasci la politica. Insomma, si aprono degli spiragli di negoziato e anche in questo noi italiani dobbiamo essere pronti in qualche modo a cogliere le opportunità per non restare indietro come siamo rimasti nelle settimane, nei mesi scorsi. L'impressione di Parsi è che l'azione italiana sia stata, diciamo, meno impegnativa degli altri partner, soprattutto la Francia, che è stata più energica all'inizio, proprio perché ci siamo andati con dei dubbi molto maggiori degli altri in questo tipo di operazione, o perché stiamo aspettando il momento giusto visto il rilievo dei nostri interessi petroliferi, visto che ultimamente Gheddafi, per riabilitare la sua posizione anche di canale diplomatico con gli Stati Uniti, ha fatto capire che sugli interessi petroliferi quanto era stato detto nei mesi alle spalle forse potrebbe essere riconsiderato. Come spiega la posizione italiana, professor Parsi? Abbiamo perfettamente perfettamente ragione, cioè lo spiego sostanzialmente con un ritardo nel muoversi, legato al fatto che noi eravamo tendenzialmente contrari a un intervento militare, per motivi condivisibili o meno condivisibili, ma sostanzialmente legati alla preoccupazione di mettere a rischio da un lato i contratti petroliferi, dall'altro i contratti, diciamo, per la Berlusconia, la Litorania che dovrebbe essere costruita in Libia, e tutta una serie di interventi legati a quel famoso trattato di pace, amicizia e quant'altro, che prevedevano sì un finanziamento, diciamo così, da parte italiana al governo libico, però questi soldi che noi davamo in realtà sarebbero stati poi ripassati in imprese italiane per costruire cose. Quindi c'era questa preoccupazione. Credo che in questo momento sia importante non restare ancora una volta attardati con un paio di precisazioni. Intanto che nel momento in cui parte un conflitto che in giro di poche ore presenta come obiettivo la dismissione, per così dire, del governo in carica, del regime in carica, in quel momento lì i contratti sono, dal punto di vista politico, da considerare perduti. Cioè, quindi il nostro poi intervento è stato il tentare di, essendoci in parte riusciti direi, riaccreditarci con i possibili vincitori nuovi per rimettere, diciamo così, vedeteci in buona posizione per ottenere quello che già avevamo. Questo è il punto. E allora a questo punto credo che per noi qualunque soluzione contempli il mantenimento di Gheddafi al potere sia una situazione in cui noi potremmo pagare il prezzo più elevato, perché noi comunque abbiamo più da perdere dagli altri rispetto agli altri se Gheddafi resta al potere, e gli altri invece tutto sommato hanno uno scenario in cui, pensate alla Francia, pensate anche agli Stati Uniti, all'Inghilterra, hanno sostanzialmente da guadagnare, nel senso che non hanno interessi consistenti in Libia. Il discorso che poi Gheddafi resti come un privato cittadino in Libia, sembra che i francesi ultimamente dicano cose bizzarre, nel senso che un personaggio come Gheddafi, dal punto di vista pratico, sarebbe troppo ingombrante lasciarlo in Libia, e non si può immaginare che vada a bere il cappuccio la mattina con gli altri vecchietti pensionati. Effetti, scusami se ti interrompo, ma è una, l'accenno che ha fatto Alberto Negri alle interviste di Juppé di oggi mi ha effettivamente fatto sorridere. Che valutazione dà invece Alberto Negri di questa ipotesi? È un'ipotesi anche solo accettabile o è una battuta per dire che appunto la Francia sta riconsiderando? Ma secondo me si tratta di un fatto abbastanza evidente dopo poche settimane dopo questa guerra, cioè dopo l'inizio dei bombardamenti. Cioè, sul piano militare questa si è rivelata una guerra abbastanza difficile e complicata da portare avanti, uno stallo militare in poche parole, con poche avanzate da parte dei ribelli, molto dubbie, e quindi si è capito molto bene che dopo un paio di mesi la soluzione militare non funzionava. Non funzionava e probabilmente è destinata a non funzionare, anche perché l'idea che i ribelli possano entrare a Tripoli potrebbe provocare delle reazioni anche locali problematiche, diciamoci la verità. Non credo che i tripolini siano molto contenti di consegnarsi a quelli di Bengasi e della Cirenaica, anche se Gheddafi certamente è più debole e più impopolare rispetto al passato. Quindi, essendo la soluzione militare francamente in situazione di stallo, allora a questo punto si cerca di capire se con le armi della diplomazia si possa arrivare a una soluzione. Gheddafi difficilmente se ne andrà via di sua spontanea volontà, questo si è capito, lo ha detto in tutti i modi, anche ai russi. Quindi forse l'unica soluzione è quella di arrivare a un compromesso politico. Quanto può funzionare un compromesso tra la Tripolitania e la Cirenaica? Beh, questo è molto difficile da dire. Certo che c'è da fare una considerazione, non c'è dubbio che anche questo conflitto, comunque condotto dall'alto, si sia rivelato un mezzo fallimento, perché ricordiamoci che cosa dicevano tutti pochi giorni dopo l'inizio dei bombardamenti, che Gheddafi in poche settimane se ne sarebbe dovuto andare. In realtà non è stato così, e a questo punto, dovendo un po' fare i conti con la realtà, si devono cercare delle soluzioni diverse, e in queste soluzioni diverse ci sono anche queste dichiarazioni, a volte contraddittorie, contrastanti, ma che rivelano tutte le grandi difficoltà che ha di solito l'Occidente quando ha a che fare con i regimi medio orientali. E quindi probabilmente un bel po' di credibilità ce la siamo giocata comunque come Occidente. Resta il fatto che poi chi è stato più intransigentemente favorevole fin dall'inizio all'azione militare, cioè la Francia, appare quella che poi ha anche un pochino il boccino dell'iniziativa diplomatica. Cosa singolare? Bah, forse fino a un certo punto chi ha più energia nelle visioni internazionali può correggere altrettanto energicamente l'evidenza di un errore che non sta portando dove si prometteva che avrebbe portato, come diceva Alberto Negri. Professor Parsi, se dovessimo fare un bilancio sintetico a chi ci ascolta delle rivoluzioni dei gelsomini sulla sponda sud del Mediterraneo, a prescindere dal Marocco, che mi sembra un po' l'unico paese in cui almeno apparentemente funziona quella freedom agenda con cui l'amministrazione Obama ha tentato di cavalcare dall'inizio dell'anno i moti di piazza, lo dico perché il re Mohammed VI ha ottenuto con questa elevata partecipazione al referendum che ha confermato la nuova costituzione con la separazione dei poteri. Comunque la situazione in Marocco mi sembra significativamente diversa da quanto in Tunisia, nuove proteste di piazza, Algeria è vero, Bouteflika continua a tenere il pugno di ferro ma è ancora un punto aperto, l'Egitto mi sembra più che mai consegnato a una transizione in cui militare e fratellanza islamica sono i veri garanti di una transizione di cui poi scopriremo più avanti dove ci porta. Ma se dovessimo fare una fotografia sintetica, lo stato dell'arte è che la sponda nord, l'Europa e l'Occidente complessivamente assistono senza avere grandi voci in capitolo, oppure è sbagliata questa impressione, Parsi? No, direi che purtroppo è giusta, nel senso che alla fine il nostro l'intervento più massiccio per giocare un ruolo a favore delle popolazioni in queste possibili transizioni di regime è quello che abbiamo fatto in Libia, parliamoci chiaro, cioè l'intervento militare dei più classici. Sulle altre parti non ci siamo sostanzialmente mossi, state a vedere. Questo per alcuni aspetti spiega anche la forza di questi movimenti, che sono completamente autocentrati, non sono autodiretti. Il buon Obama può agitarsi quanto vuole, ma il cappello non lo sta mettendosi forse con la rivoluzione marocchina, ma semplicemente perché c'è una transizione guidata dal re che ha ripreso dopo aver iniziato in passato e mollato lì il colpo. Su quello che il punto di partenza, come al solito, deve essere uno di realismo, cioè il punto di equilibrio precedente non c'era più, i regimi hanno iniziato a crollare perché la spinta dal basso li ha fatti vacillare per una serie di motivi che mi sono stati detti tante volte, per cui non torno per brevità. Quello che è stato sbagliato, ma credo che molti di noi l'hanno detto fin dall'inizio, era immaginare che una transizione fosse da un lato necessariamente destinata al successo. Transizioni verso regimi diversi che falliscono riempiono gli annali della storia e gli scaffali dei politologi, e dall'altra parte che questa transizione potesse avvenire con esito favorevole in un tempo molto breve. Io dico sempre una cosa, dico anche oggi: se qualcuno fosse arrivato a Parigi nel 1870 avrebbe tratto la conclusione che a 80 anni dalla rivoluzione francese un re era ancora sul trono a Parigi, per cui cioè, non è che possiamo immaginare che qualcosa che è rimasto immobile per molti decenni di colpo cambia e porta a compimento il suo processo. Io sono ottimista sul lungo periodo, cioè credo che per il modo in cui queste rivoluzioni si sono sviluppate fino adesso, persino al di là di quelle che saranno poi le risposte fornite dalle singole classi dirigenti, hanno a mio avviso instillato nel lato della domanda politica, nella testa dei cittadini di questi paesi, da un lato un tipo di domanda che è molto più simile alla domanda politica che c'è in Occidente, libertà, dignità, giustizia, eccetera, e dall'altra parte un elemento di individualità in un mondo che era dominato fino a quel momento dalle comunità, per così dire. Credo che questa cosa, messa dentro al circuito politico, produrrà un effetto sostanzialmente irreversibile, il che mi fa dire che c'è una speranza, cioè la prima volta che vediamo in questo mondo qualche cosa che nasce e non è negli ultimi 20 anni in contrasto diretto con l'Occidente, è qualcosa che può essere compatibile con i nostri interessi, con i nostri valori. Sta a noi, credo, il tentativo di aiutare questa transizione facendo tutto quello che è possibile in termini economici e politici per assecondare questo processo di individualizzazione della domanda politica in questi paesi. E poco e tanto, dobbiamo iniziare a pensare che noi non siamo i padroni del mondo, certo. E quindi possiamo contribuire a qualche cosa, ma non possiamo determinarlo. Io ho l'impressione solo che l'Europa per così dire, piegata in due sull'eurocrisi del debito da un anno e mezzo, non stia dispiegando proprio l'attenzione, le energie politiche, ma anche poi quelle, le risorse economiche necessarie a prendersi interlocutori, non dico garanti, ma buoni partner di quel processo, per dare l'impressione a quelle opinioni pubbliche, alla parte che poi segue l'informazione internazionale, che siamo del tutto interessati a porgere una mano. Questa è la mia impressione. Del resto vedremo giovedì al vertice straordinario se verrà una risposta finalmente credibile ai problemi dell'eurocrisi. Lì balla l'Italia, come abbiamo visto le ultime settimane, e non solo più la Grecia. Gaiani, facciamo una riflessione invece su quello che capita al finanziamento dello strumento militare italiano in prospettiva, visto che la manovra pluriennale fa nuove tagli attraverso la spending review, quindi dovrà essere il ministro della difesa della Russia, come il ministro però dello sviluppo economico e il ministro Gelmini, perché molti non lo sanno, ma noi i 3 miliardi e mezzo che in questi anni abbiamo difeso dei programmi di investimento sono travestiti da ricerca, ma i programmi di acquisizione di piattaforme e velivoli e sistemi internazionali che ci consentono di partecipare a queste missioni dal punto di vista aeronavale sono sul finanziamento del MISE e del MIUR. Con questi nuovi tagli, questi 21 miliardi più o meno che continuiamo a spendere per la funzione difesa, che sono fermi da anni e di cui molti chiedono ancora tagli, che cosa ci fanno pensare dello strumento militare italiano? Dove interverranno i nuovi tagli? In quali voci e che cosa significherà per le missioni internazionali? Dovremmo ridurle per forza a quel punto. Allora, diciamo che la funzione difesa quest'anno ha assorbito poco più di 14 miliardi di euro. Il vero problema è che per sostenere il 66% di questo bilancio, che viene assorbito dalle retribuzioni, dalle voci del personale, e per mantenere anche con i contributi di altri ministeri, come tu hai ricordato, una capacità di investimento, cioè di acquisire nuovi materiali, nuovi equipaggiamenti per rimpiazzare quelli vecchi, si è sacrificata la voce esercizio, che ha subito tagli spaventosi, e quella è proprio quella voce che consente alle forze militari di gestire le infrastrutture, di addestrarsi, di disporre di generi di consumo, incluso il carburante. Il rischio qual è? Che oggi noi abbiamo un finanziamento extra bilancio, circa 1,5 miliardi all'anno, che viene stanziato da fondi governativi approvati in due fasi semestrali per finanziare le missioni. Questi fondi sono necessari, vengono impiegati anche per preparare i reparti militari all'impiego oltremare. Mi spiego meglio: una brigata che va in Afghanistan, ci sono i parade alla Folgore in questo momento, utilizza questi fondi per prepararsi, per addestrarsi ad affrontare anche il combattimento in Afghanistan. Senza questi fondi per le missioni non ci sarebbero i soldi per addestrare i reparti. Quindi il rischio qual è? Che col venir meno di molte missioni, l'Afghanistan si presume, si prevede di poter ritirare le forze da combattimento nel 2014, comunque il calo dei fondi per le missioni rischia di, senza che ci sia un aumento programmato e ben valutato del bilancio della difesa, rischia di lasciare, di trasformare le forze armate in uno stipendificio, cioè in una struttura statale che è in grado di pagare gli stipendi, ma sempre meno di fornire l'addestramento e anche i mezzi necessari per essere efficienti, con una nicchia che potrebbe restare per continuare ad alimentare il ricambio, anche se su numeri più bassi, di mezzi moderni, e che sarebbe necessario anche all'industria, ovviamente, per mantenere le commesse che finora ha avuto. Ma proprio su questi temi ci sono già dei contrasti, si veda sul numero di fregate FREM, le nuove fregate che potremmo avere, c'è la grande incognita dell'F-35, del nuovo cacciabombardiere, del Joint Strike Fighter, di cui ancora anche negli Stati Uniti ci sono molte perplessità. E quindi ci sono moltissime incognite. Quello che ne sarebbe necessario, io credo, sarebbe una grande rivisitazione nazionale, che deve partire dalla politica, coinvolgendo ovviamente le strutture delle forze armate e anche dell'industria, di che tipo di strumento militare vogliamo. Innanzitutto ridurre i numeri, perché non è possibile che l'Italia abbia più truppe della Gran Bretagna avendo un bilancio che è un terzo di quello britannico, e decidere di avere meno uomini ma tutti molto meglio addestrati e tutti soprattutto impiegabili all'estero. È impossibile avere un esercito di 110.000 soldati, poco meno, e però non ne puoi schierare all'estero più di 6.000, la cosa non è più accettabile. Quindi ristrutturare il modello di difesa, decidere numeri, decidere soprattutto cosa chiede il paese, cosa pensa di chiedere, esatto, il paese alle forze armate. E io per questo ho voluto che Gaiano concludesse con questa riflessione, perché come si vede, e sono le riflessioni di fondo serie sulla difesa, numeri, finalità, coinvolgimento e intreccio con la nostra politica estera, con i nostri interessi, quelli che la politica poi in realtà ci ha lesinato, forse non ci considera all'altezza di una riflessione di questo tipo, esattamente come non ci dà l'informazione sul campo di quello che fanno i nostri giorno per giorno. Grazie ad Alberto Negri, Alberto Pinna, Vittorio Emanuele Parsi e Gianandrea Gaiani. Linea al Giornale Radio, appuntamento a domani mattina.